Essere e benessere di Nicoletta Carbone. San Valentino, festa degli innamorati, quale migliore occasione per parlare d'amore? Il cuore ha le dimensioni di un pugno chiuso e ha una forma simile ad una pera con la punta rivolta verso il basso. Il cuore è l'organo simbolo dell'amore, segue il ritmo delle emozioni. Normalmente in una persona adulta il cuore si contrae 60-70 volte al minuto. In una persona innamorata molte di più. A volte si arriva a 100 senza rendersene conto. Non sei più tu che comandi quando sei innamorato. Quando il tuo cuore batte forte per un'altra persona, non sei più tu che comandi. È lui. L'amore può farci perdere la testa, ma in compenso ci fa guadagnare in salute. È proprio così. Ci sono fiorfiori di ricerche pronte a sostenere con ricchezza di dati quello che gli innamorati hanno forse sempre saputo: l'amore migliora la vita. Ma c'è di più. L'amore, anzi, è un vero e proprio elisir di lunga vita. In linea con noi il dottor Filippo Ongaro. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Che oggi per l'occasione indossa i panni del dottor Stranamore. Che dice? Cambio veste. Dottor Ongaro, l'amore ringiovanisce, si dice, e lei che si occupa di medicina anti-age me lo può confermare. Come no, confermo, e devo dire che lo confermano anche moltissime ricerche. C'è un lungo elenco di benefici. Nel complesso possiamo dire che amare, essere innamorati, mantiene in forma. Molto di questo è dovuto ad una serie di ormoni, neurotrasmettitori complessi, che fanno sì che l'innamorato sia un po' come se fosse sotto l'effetto di una droga. In particolare c'è un ormone che si chiama ossitocina, che ha un forte azione antistress, aiuta a dormire meglio e perfino ci aiuta a socializzare, cioè facilita l'interazione tra le persone. Ma ci sono molti altri dati: si riduce il rischio di infarto, ha perfino un effetto benefico sulle rughe in quanto c'è un rilascio di estrogeni che favorisce la salute della pelle. Essere innamorati ed essere, in questo caso, ricambiati, immagino, esattamente, anche stavo arrivando a quello, essere innamorati e ricambiati, ricordiamolo sempre, perché sennò non credo che faccia tanto bene, ma aumenta perfino le difese immunitarie. È stato visto che baciarsi con costanza e a lungo nel corso della propria vita di coppia fa vivere qualche anno in più. E poi c'è da dire che si sta anche più in forma per quello che riguarda il peso, perché fare l'amore fa consumare più calorie, e questa è una sola delle tante relazioni tra alimenti, cibi e amore. Che è una relazione molto stretta, che viene comunque tirata ogni anno in ballo proprio in occasione di San Valentino, e anche noi oggi ne vogliamo parlare, proprio di cibi e di amore, per sottolineare la relazione che esiste tra i piaceri della tavola e il desiderio sessuale, perché al di là delle correnti di pensiero varie e contrastanti, questo è un dato almeno certo. E a proposito, se la vostra storia d'amore fosse un piatto, quale piatto sarebbe? Su Facebook mi avete già scritto: Elisabetta sarebbe un profiterol fondente con panna e marron glacé. Alessandra mi scrive: minestrina? No, scherzo. Comunque non sempre, dipende certo quando hai figli ancora giovanissimi, non è facile fare in modo che sia una sentonorée con cioccolato. Veronica ci scrive: credo un'anatra alla cantonese, molto lunga ed elaborata da preparare, ma fantastica per tutti i sensi, gusto, olfatto, vista e anche udito. La pelle dell'anatra che crocca troppo. Un abbraccio da Veronica. E qui in studio con me, a proposito di amore, c'è il professor Tirelli. Professor Tirelli, la presento dicendo, a proposito di amore, perché? Perché l'amore è energia pura. Sì, buongiorno Nicoletta e a tutti gli ascoltatori. Da sempre l'amore è identificato come una forma di energia evolutiva. Comunque lo si voglia osservare, questo sentimento è un tipo di energia che anche negli antichi testi viene ripreso come fonte vitale. Io più che sentimento dell'amore posso identificarlo come intelligenza dell'amore. L'intelligenza dell'amore è riferita al fatto che tutto ciò che viene fatto attraverso questa forma energetica ha un suo divenire coerente e alla fine risolutivo, soprattutto in positivo. Quindi l'abbandonarsi a quel sentimento che sentiamo per la propria persona amata o per altre situazioni della vita di cui siamo innamorati, perché potrebbe essere anche un progetto di vita, può essere una situazione lavorativa, professionale, una contemplazione, quant'altro, ha una sua intelligenza che vedremo anche nell'arco della trasmissione, ci riporta degli antichi testi che sono infallibili da questo punto di vista, cioè portano a capire come l'intelligenza dell'amore sia fonte per la salute e quindi nutrizione per il nostro organismo. Mi piace, amore inteso, non solamente parliamo di amore nei confronti dell'innamorato, ma l'energia, la passione che mettiamo nelle cose che per l'appunto amiamo. Vi voglio dare una notizia e soprattutto anche al dottor Aquilar che è in linea con noi. Buongiorno dottor Aquilar. Buongiorno e buongiorno a tutti i nostri ospiti ascoltatori. Dottor Aquilar, lei si ricorda Patrizio che era il nostro ascoltatore, che era stato lasciato, aveva il cuore rotto, infranto? Se lo ricorda? Certo, me lo ricordo. Come bene, no? Abbiamo cercato di aiutarlo. Benissimo. E mi scrive e oggi è veramente un bel regalo di San Valentino che ci fa. Ciao Nico, dopo 2 mesi sono riuscita a riconquistare il mio amore, forse anche grazie a voi. Dottor Aquilar. Che bello, ma questo siamo è un contenti, aiuto vero? Certo, certo, come no. Dottor Aquilar, chissà a quale piatto, come descriverebbe la sua storia in un piatto, Patrizio, che adesso ha ripreso, ha riconquistato il suo amore e mi scrive anche, non a me naturalmente, ma alla Claudia del suo amore, Claudia ti amo, glielo mandiamo così un messaggio di San Valentino da essere benessere. Dottor Aquilar, che piatto sarebbe? Sarebbe un piatto dove c'è stata una improvvisa ondata di creatività che ha consentito di modificare quello che si stava cucinando. Me l'immaginerei come una pasta al forno di cui sono stati all'improvviso modificati gli ingredienti per una cosa innovativa e molto saporosa. Quindi invitiamo gli ascoltatori a raccontarci la loro storia d'amore con una ricetta. 800 24 00 24. Dottor Aquilar, facciamo un altro esempio. Se una persona invece vive una storia d'amore ormai consolidata da anni, a che piatto si avvicina? Ma intanto speriamo che non sia una minestra riscaldata. E per certi aspetti se la ride certo anche la il rido. Professor Tirelli, il dottor Stranamore non l'ho sentito ma conoscendolo lo rido anch'io, so che se la ride, ma ride bene chi ride ultimo, va bene. Il professor Tirelli parlava dell'intelligenza dell'amore, io come psicoterapeuta mi scontro più spesso con la cretinaggine dell'amore, cioè col fatto che a volte per amore le persone si ficcano in certi problemi e vengono ottusi nelle loro capacità, ma di questo ne parleremo più avanti. Una bella relazione potrebbe essere paragonata ad un piatto ricco, per esempio ad una lasagna o allo splendido sartù di riso alla napoletana. Magnifico, con quelle polpettine, vero? Certo, certo, i piselli. Ricchezza proprio. Se invece abbiamo appena iniziato una relazione, quindi sentiamo ancora le farfalle nello stomaco, quando squilla il telefono speriamo sempre che sia lui. In questo caso mi immaginerei un piccolo piatto di antipastini, tanti piccoli assaggi colorati e saporiti che ci predispongono a qualcosa di nuovo con un goccio di vino frizzante che ci predispone alla sorpresa gradevole, che è una bellissima emozione dell'innamoramento. Dottor Ongaro, ha sentito il dottor Aquilar? Ha invaso anche un po' il suo territorio, le ha suggerito che cosa le... No, invaso il territorio in maniera piacevole, dopo... Noi siamo sempre costretti ad aggiungere quelle parole terribili tipo sì, ma saranno integrali queste lasagne, no? Che nessuno vuole sentirsi dire oggi. Eviterò. Eviterà? Esatto. Bene, mi arrivano già molti messaggi perché lanciando il messaggio d'amore di Patrizio per la sua fidanzata riconquistata, molti ascoltatori mi mandano messaggi d'amore, sono molti uomini per le loro fidanzate. Allora è un messaggio collettivo, molti degli ascoltatori di Essere Benessere hanno un'innamorata che ricordano proprio oggi. Il consiglio, professor Tirelli, e non ricordatela solo oggi, no? Beh, questo è sicuro. Tra l'altro volevo agganciarmi a quanto diceva il dottor Aquilar, per cui il discorso da questo punto di vista poteva, secondo il professore, essere visto come cretinaggine dell'amore. In realtà io la definirei intelligenza e follia dell'amore, però d'altra parte in un mondo, in una vita che, come quella che stiamo vivendo, fatta di tante problematiche razionali, di situazioni, di preoccupazioni, quale miglior mezzo per poter invece dare una svolta alla nostra vita con una sana follia? Quindi l'intelligenza dell'amore è anche la follia buona dell'amore stesso. Dottor Aquilar, invitiamo i nostri ascoltatori a raccontarsi attraverso una ricetta. La libreria di Essere Benessere naturalmente oggi ha le porte molto aperte, per cui ogni ricetta all'800 24 00 24, un omaggio della libreria di Essere Benessere, prendetela come un regalo di San Valentino, poi datela leggetela voi o datela al vostro Valentino di turno o a quello con cui vi accompagnate da anni. Professor Dottor Aquilar, a presto, grazie. Va bene, a più tardi, grazie a voi. Continuate a scriverci e a chiamarci, 800 24 00 24, come sempre potete seguirci anche su Facebook e su Twitter. Quegli occhi, quel paio d'occhi che brillavano, sembravano due fari, due torce. E quel sorriso così, così accecante, sembrava di vedere il sole quando lei rideva, credimi. Fulvio, quando un uomo si sente addosso quello sguardo, quell'espressione, ma è inevitabile che gli esploda qualche cosa dentro. Tu pensi che io ci ho avuto soltanto un infarto, ma io ce ne ho avuti 3, 4, non lo so nemmeno io quanti ce ne ho avuti. Il primo sicuramente quando ci siamo visti la prima volta, poi il secondo quando mi ha carezzato e il terzo quando ci siamo baciati qui. Stavo per rimetterci le penne, Fulvio, lo sai, però se qualcuno mi facesse la fatidica domanda: Ernesto, ne è valsa la pena? Io risponderei: ne è valsa la pena! Mi piace molto. Il cuore di chi ama è spesso in subbuglio, ma ne vale la pena, come sentivamo da Verdone. Ma c'è di più. Il cuore di chi ama, e non solamente parliamo di amore nei confronti del partner, è anche più protetto. Dottor Ongaro. Sì, senza dubbio esistono dei meccanismi molto complessi che legano la funzionalità del cuore a quella del sistema nervoso e del respiro, e in certe occasioni si instaura una sorta di sincronismo magico tra queste diverse funzioni che rilassa il cuore e lo protegge. Diciamo, alla base di questo c'è un ci sono anche molte delle tecniche di respirazione che il professor Tirelli conosce molto bene, che derivano dall'Oriente e che hanno proprio questa funzione di creare una sincronicità tra il ritmo del cuore e il ritmo del respiro, che espande in qualche modo la condizione di salute del soggetto. Il professor Tirelli vedo che annuisce, perché adesso, anche secondo le ricerche, tra poco ne sentiremo una, è un po' una questione di ritmo, professor Tirelli, e parafrasando il proverbio si potrebbe dire che sei innamorato quando il tuo cuore batte all'unisono con quello di un altro, ma non solo il cuore, anche il respiro. Sentiamo e poi commentiamo. Il mio cuore batte per te. Una frase d'amore che anche la ricerca ha messo alla prova. Arriva dall'Università della California uno studio firmato da Emilio Ferrer, che ha dimostrato come i cuori di due amanti battono all'unisono. Lo studio ha monitorato in contemporanea i battiti e la respirazione di diverse coppie e ha scoperto che i battiti e le frequenze respiratorie dei partner vanno di pari passo. I cuori pulsano sincronicamente e si inspira e si espira con gli stessi intervalli. Alle coppie era stato chiesto di non parlarsi né toccarsi. Lo studio ha rilevato che quando due individui non stavano insieme, non mostravano alcuna sincronia, né respiratoria né cardiaca. Insomma, se è stato dimostrato che l'ossitocina fa durare di più le storie d'amore e che l'olfatto stimola l'eros, per fare scattare la scintilla servono battiti all'unisono. Battiti e respiri all'unisono. Professor Tirelli, e lei con il respiro ci può anche insegnare delle tecniche di respiro per far circolare meglio questa energia. Sì, tant'è che nell'antica medicina cinese il respiro è uno degli elementi fondamentali per il mantenimento del chi, quindi di questa forza che noi abbiamo nel corpo. Questo respiro ha dentro di sé quella forza vitale che fluisce all'interno dei meridiani energetici e che si manifesta in diverse forme. Una di queste forme, che è quella connessa principalmente al cuore inteso come emozioni, sentimenti, la capacità di sentire, si chiama Shen, S-H-E-N. È una parola molto bella che ha molti significati, tra loro apparentemente contrastanti, ma in realtà complementari. Significa cuore, emozioni, ma significa anche mente. Talvolta in Occidente diciamo dividiamo ciò che è razionale dal sentimento, attenzione, no. Altrimenti, mentre invece in questo caso noi abbiamo un significato che unisce le due cose. Se noi amiamo, amiamo totalmente, non possiamo amare un quarto, un terzo, a metà. Certo. Io amo col cuore, amo con la mente. Molto Shen. Amo quindi. Con le forze, molto Shen. Shen è una bellissima parola che ci riporta veramente all'origine di quello che è la connessione tra tante cose, anche tra noi il divino, quindi l'amore per la spiritualità, l'amore per la passione di tutto, questo è Shen. Dobbiamo coltivarlo, ci sono dei punti importanti oltre alla respirazione che possono migliorare il fluire di questo Shen nel nostro corpo. Quali, dove sono? Ma per esempio uno bellissimo che... I punti degli innamorati, si parla spesso di punto, del famoso punto G, invece noi parliamo dei punti magici del professor Tirelli. Pensi che altro che... Dove sono questi punti? Allora, se io guardo il palmo della mia mano, sì? Per esempio prendo la mano destra, vedrò che alla fine del quinto dito, in prossimità della linea del polso... Sì? Flettendo la mano si formeranno delle pieghettine. Sì. Ok. Ecco, proprio lì sentirò che c'è un ossicino piccolo, prominente. Guarda com'è lì che lo cerca Carmelo Lauricella, lo vedo, sì. Eccolo. Questo al di sotto di quest'osso, tra sì. osso e tendine, sentirò una fossettina che è proprio il punto 7 del meridiano, guarda caso, del cuore. È il punto Shen che chiarifica, che dà armonia al fluire, quindi siamo troppo agitati perché ci batte troppo il cuore perché sta arrivando la persona amata, va bene, possiamo anche calmarlo un po' in questo senso. Siamo anche di fronte ad una situazione emotiva di un certo tipo, può essere anche un esame all'università, a scuola, posso calmarlo, ma in realtà il principale scopo di questa pressione, di questo punto, è proprio far fluire, non ostruire ciò che ci caratterizza come specificità, unicità, cioè essere umani capaci di vivere le emozioni. Mi piace molto anche questo punto che vogliamo consigliare ai nostri amici, alle persone che si sentono invadere e muovere dall'energia. Non parliamo solamente di innamorati, ma vi rimando alle ricette che mi stanno arrivando. Mi scrive Serena, a cui voglio subito mandare un libro perché mi ha scritto: cara Nicoletta, la storia tra me e il mio fidanzato può essere paragonata ad una tavoletta di cioccolato fondente, solida, non eccessivamente dolce, energetica. Grazie Serena. Serena, un libro della libreria di Essere Benessere, perché ci ha regalato un'immagine molto bella della sua storia d'amore che vorrei commentare con il dottor Marco Rossi. Come poteva mancare? Buongiorno dottor Rossi. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti, buon San Valentino a tutti. E certo, psichiatra e sessuologo. Dottor Rossi, il batticuore a cui accennava il professor Tirelli, tanto che se siamo molto agitati possiamo stimolare un pochino quel punto per calmarlo, però è proprio un segnale tipico della prima fase dell'amore, dell'innamoramento. Poi a poco, per fortuna, no, ci tranquillizziamo e si arriva ad una fase di consolidamento. È su questa che dobbiamo lavorare. Professore, dottore. È proprio su questa che dobbiamo mettere il nostro massimo impegno. Noi dobbiamo tenere conto che l'amore che segue l'innamoramento è un vero e proprio lavoro, necessita un vero e proprio impegno, nel senso che ci si innamora molto facilmente, o meglio, a chi capita, no? Basta un attimo, basta uno sguardo, basta un profumo, basta una sensazione e ci si innamora. Invece poi è da lì che bisogna poi costruire con grande, grande pazienza, con grande impegno, ma è quello che poi ci fa star bene per sempre. Questa famosa ossitocina ci mette anche un po' lo zampino, e direi anche dalla ricerca che abbiamo sentito, unita anche all'olfatto, quindi un ormone e un senso. Ma tutti e in più anche mettiamo tutti e cinque i sensi. Allora è interessantissima anche questa cosa della respirazione, perché una cosa che non abbiamo detto e che secondo me è interessante da citare è che la respirazione è utile anche a superare le difficoltà dell'orgasmo. Quindi imparare ad appropriarsi bene la propria respirazione, saperla gestire in maniera adeguata, quindi con degli esercizi che ci possono insegnare, che possiamo apprendere, possiamo imparare anche a vivere degli orgasmi migliori o a superare le difficoltà quando abbiamo delle difficoltà di orgasmo. Quindi... Vede, dottor Rossi, che il professor Tirelli questa parte della respirazione non ce l'aveva mai svelata ed è qua che sogghigna. Ecco, quindi... Ecco, grazie che ce l'ha detto, perché adesso poi lo incastreremo, perché gli chiederemo oltre ai punti anche il respiro, perché il dottor Ongaro tra l'altro ci diceva che fare l'amore fa bene all'amore, fa bene alla salute generale e fa bruciare anche un po' di calorie, dottor Ongaro. Vabbè, senza dubbio, no? È un'attività fisica anche con dei risvolti di una certa intensità, per cui sicuramente fa perdere del grasso. Quindi deve essere piacevole e intensa. Mi fermo qui, dottor Rossi, però dobbiamo tornare su questo tema. Assolutamente volentieri. Grazie, grazie, grazie. Buon San Valentino anche a lei. Posso salutare un attimo Lia, che ci chiama da Alessandria? Buongiorno Lia, benvenuta. Buongiorno, buongiorno Nicoletta. Buongiorno a voi. Festeggia oggi? Sì. Bene. Cucinando. Cucinando. Cucinando. E che cosa cucina? Una pasta al forno. Che rappresenta la sua storia? Una pasta al forno che faccio sempre comunque volentieri, ma comunque dedicata comunque a mio marito. Da quanti anni siete sposati? 38, quindi è una ricetta che possiamo consigliare a Lia, sì. Da Alessandria, a cui faremo arrivare a casa un libro della libreria di Essere Benessere. Puntate sulla pasta al forno con le melanzane. 38 anni di matrimonio felice. Essere Benessere. Oggi non si può fare a meno, parliamo d'amore il giorno di San Valentino, ma parliamo di amore inteso come energia. Lo facciamo con il professor Tirelli, il dottor Ongaro e i nostri ascoltatori a cui abbiamo chiesto: descrivete la vostra storia d'amore, potete raccontare anche una vostra storia di amicizia, come mi chiedono molti di voi via SMS, è una forma di amore anche quella, con un piatto. Mi scrive Laura: cara Nicoletta, la storia tra me e Simone è come un millefoglio, ogni giorno si rinnova e si basa su solide basi, con due gemelle che fanno da collante cremoso del nostro dolce amore. Laura, anche Laura oggi riceverà dalla libreria di Essere Benessere un libro per ricordare questa giornata, questa sua partecipazione. Intanto andiamo da Paolo, che ci chiama da Padova, e da Mirko a Piacenza. Paolo, buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Festeggia? Purtroppo no, sono fuori per lavoro. Mannaggia. Beh, però c'è sempre anche domani, non è che dobbiamo fare tutto oggi, se no le energie, professor Tirelli, esatto. Dove le mandiamo subito in riserva. Mi racconti, Paolo? Allora, niente, io volevo raccontare la mia ricetta, che è abbastanza particolare. La chiamo risotto cielo stellato. Ed è un risotto che io creo con una gustosa salsa al vino rosso, in particolare all'amarone, quindi amore amarone, e che dà un bel colore violaceo intenso, e che poi condisco con delle scagliette di peperone giallo, che completano quindi anche dal punto di vista cromatico un piatto di romantico e interessante, insomma. E questa è un po' la descrizione anche della sua storia d'amore, Paolo, quello rappresenta questo risotto, già il nome, cielo stellato con l'amarone. Sentiamo cosa ne pensa Stefano Polato, che è in linea con noi. Stefano, ciao. Buongiorno a tutti, ciao Nicoletta. Certo che Paolo da Padova si butta. Da buon padovano. Vedi. No, diciamo che uno degli scopi delle ricette per San Valentino è quello di riuscire ad alzarsi dopo la cena, perché ci si auspica di potersi spostare dalla cucina. Quindi, come suggeriva prima il dottor Ongaro, che si chiedeva se la lasagna fosse integrale o meno, ecco, a questo punto suggerirei di provare con un riso integrale, oppure con un riso venere o un riso rosso, che che fa sempre la sua bella scena in tavola. Comunque, grazie a Paolo, con questo suggerimento, se vorrà, di Stefano Polato, riceve a casa un libro della libreria di Essere Benessere. Dottor Ungaro, Stefano Polato ci fa mangiare integrale, ma io vorrei parlare con lei dei cibi afrodisiaci. Vengono tutti gli anni ritirati fuori, aiutano, stimolano, fanno innamorare, risvegliano la passione. Ma allora, io devo dire questo, che è interessante che quando si chiede, no, questo gioco della raccontarci le ricette, emergono davvero i gusti, i sensi, nessuno risponde i broccoli o un pesce lesso, no? Quindi c'è da chiedersi, chiedersi aspetti, come magari mai. Sì, No, e Stefano Polato ha osato più di me, io oggi non osavo nemmeno citare l'integrale, Stefano è stato coraggiosissimo, però quello che volevo dire è che penso che il legame reale sia più a livello proprio della stimolazione e della messa in gioco dei centri del piacere che di un vero effetto afrodisiaco, perché se uno poi va a vedere, diciamo, le ricerche disponibili su questo, insomma, pare che non ci siano molti dati a sostegno di un effetto afrodisiaco, nemmeno dei cibi più noti come le ostriche. Ecco, per esempio, infatti un ascoltatore mi scrive: bastassero due ostriche. Infatti c'ha ragione, nel senso che le ostriche sono dei buoni alimenti e per fortuna siamo in un caso, in una situazione in cui gli alimenti che vengono normalmente citate come afrodisiaci possono comunque darci una mano su altre cose, per esempio le ostriche sono ricche di zinco, di ferro, di calcio, aiutano il sistema immunitario, quindi ben vengano, però temo che sull'effetto afrodisiaco, insomma, ci siano molti dubbi, così come per esempio l'avocado, un altro cibo che spesso viene citato come un alimento afrodisiaco, in realtà è ricco di grassi monoinsaturi che ci fanno bene, ma dati su le capacità di stimolazione da un punto di vista dell'attività sessuale sono scarsi, e così potremmo dire per altri, vengono citate le uova, le banane, le mandorle, i fichi, però su nessuno esiste davvero una forte evidenza scientifica del fatto che diano un effetto afrodisiaco, però sono cibi assolutamente sani, quindi perché no, insomma. Invece, professor Tirelli, potremmo puntare, se il cibo non funziona o funziona poco, o meglio, funziona tutto quello che c'è intorno al cibo, la scelta, la preparazione, il consumarlo insieme per chi ha tempo. Invece puntiamo su questa respirazione che ci intriga molto, perché lei ce l'ha tenuta nascosta. Allora, dicevano bene sia Stefano Polato sia i nostri interlocutori, quindi direi che l'alimentazione è fondamentale per un'attività anche sessuale importante, così come lo è la respirazione. Dottor Ungaro altrettanto bene parlava di tutti gli effetti ormonali che questo atto secerne e provoca. Allora, dobbiamo assolutamente imparare a gestire una parola, liberare. Liberare la respirazione. La respirazione qual è? È quella completa, non è quella controllata, si parla di respirazione diaframmatica, di respirazione toracica. No, in realtà la respirazione indicata anche dagli antichi testi è proprio quella che occupa sia la parte del cuore in senso lato della sua posizione toracica, sia quella addominale. Nella parte addominale abbiamo dei punti energetici importantissimi che abbiamo trattato tante volte, punti del meridiano di vaso concezione. E allora qual è? Quella sotto l'ombelico, vero? Tre dita sotto l'ombelico. E lì ci stiamo sempre andando un pochino più, non è una trasmissione hard, neanche a San Valentino, però è lì che la medicina cinese dice di andare. Sì, quindi l'invito è proprio anche durante il rapporto sessuale, ma durante la giornata, se vogliamo comunque vivere al meglio la nostra energia, di non stringere troppo le nostre cinture, per esempio durante la giornata, ma anzi di liberare questa parte addominale. La respirazione quindi è totale, sia toracica che addominale, sincronizzata, non in senso razionale, matematico, ma dobbiamo liberarci, tant'è che è impossibile, io credo, anche durante la massima funzione dell'atto d'amore, che è quella sessuale intesa da un punto di vista globale, limitare la nostra voce, il nostro respiro, tant'è che nel Su Nu Jing, che è un antico testo cinese, si parla proprio di atto sessuale come manifestazione globale cosmica tra Yin e Yang, quindi vuol dire che in questo atto momentaneo noi raggiungiamo, secondo gli antichi testi, il divino dentro di noi, cioè lo Yin e lo Yang, la materialità con lo spirito. Infatti, l'attività sessuale nutre il jing, un'altra parola che abbiamo trattato tante volte. Jing è tutto ciò che è codice genetico, parte fondamentale delle nostre caratteristiche. L'attività sessuale condita poi con quel sentimento di amore, che è la sostanza che dà il massimo del valore all'attività sessuale, provoca a tutti gli effetti un aumento sia delle difese immunitarie, sia delle difese in generale da aggressioni da agenti patogeni, ma anche endogeni. Quindi cosa voglio dire? Che l'attività sessuale in medicina cinese non è vista solo come un'attività fisica, ma come medicina vera e propria. Quindi l'invito è di fare tanto, tanto, tanto l'amore. Dottor Roncaro, fermiamoci. Non posso che condividere questa cosa. Tra l'altro, velocissimamente, c'è da dire che tutte queste cose sulla respirazione e le connessioni con il cuore, che vengono viste da un'ottica medicina cinese, sono confermate dalla medicina occidentale. Si parla di un parametro detto variabilità della frequenza cardiaca, che misura proprio questa sincronicità, sincronismo tra il cuore, il respiro e il sistema nervoso. Quindi è sicuramente da approvare il consiglio che ci dà Stefano Tirelli. Essere e benessere. Dottor Roncaro, bisogna mangiare bene, cibi afrodisiaci insomma non funzionano granché, ma comunque possono aiutare, no? Ad appagare il gusto e quindi a creare anche quell'atmosfera, ma bisogna alzarsi da tavola sufficientemente leggeri. Questo ci ha detto Stefano Polato. Sì, concordo assolutamente, credo che possa essere anche una serata di sperimentazione, sono sicuro che Stefano ci offrirà degli spunti su questo, nel senso che suscitare e stimolare i centri del piacere vuol dire anche sperimentare qualcosa di gustoso, ma magari di inusuale, di nuovo. Cucinerà lei stasera? Stai parlando con me? Sì. Io sì, broccoli, lessi, salmone... E molto riso integrale. Stefano, qua che cosa ci hai proposto? Noi le ricette io le ho già sbirciate perché sono già sul sito. Sì, allora come diceva... Devo dire, Laura Vanossi ha scelto proprio è andata dritta alla banana e cioccolato. Okay, ha detto, okay. Va bene, io faccio quello. Però... Sì, no. Ho scelto dei piatti abbastanza semplici, perché purtroppo oggi, pur essendo la festa degli innamorati, non è festa nazionale, quindi si lavora, quando si arriva a casa non si hanno ore da dedicare ai fornelli, quindi cose rapide, veloci, che, come diceva prima il dottor Roncaro, ci aiutano a giocare con i sapori. Con i sapori che, più a livello simbolico che effettivamente medico, scientifico, vengono considerati afrodisiaci, però in ogni caso, almeno a livello psicologico, ci aiutano ad affrontare la serata di San Valentino. Allora, ho scelto un aperitivo, come aperitivo un centrifugato di mele, carote, sedano e rucola. La rucola ci prepara il pasto, oltre ad essere considerato un cibo, tra virgolette, afrodisiaco, ci prepara il pasto e ci aiuterà per la digestione. E aromatizziamo con noce moscata e zenzero. Lo zenzero sì. Un pochino farà anche lui, dai. Esatto, un po'. La ecco, dai. Come primo tutto piatto, aiuta. Sì, come primo piatto. Allora, spaghetti di grano duro, possibilmente integrali, con triglie e carciofi all'anice stellato. L'anice stellato, già dagli antichi greci e dai romani, veniva assunto come alimento per aiutare ad aumentare la libido. Sì, un po' rinvigorente, diciamo. Esatto, e poi andiamo al secondo, e lì... Poi andiamo al secondo, qui abbiamo delle mazzancolle piccanti con avocado e mandorle. Pesce e crostacei in genere sono considerati afrodisiaci, e il peperoncino che stimolerà le terminazioni nervose. Una mano la dà. Dell'avocado abbiamo già parlato prima con il dottor Roncaro. E se la ride. E poi la mandorla qui è stata inserita come simbolo di fertilità nell'iconografia. Quindi, classica viene inserita. E noi l'abbiamo inserita anche nel menù. E come dolce, sì. Molto come semplice, dolce, banana, esatto, e cioccolato. Banana e cioccolato, schiacciamo con una forchetta la banana e intervalliamo in un bicchierino della banana con del cioccolato a scaglie e dei biscotti sbriciolati, sempre all'olio extravergine di oliva. Certo, chissà Stefano che idea si è fatto il dottor Aquilar, che ci ha ascoltato in silenzio. Dottor Aquilar. Ah, è un menù affascinante, straordinario, e quindi chi avrà la possibilità di farlo si godrà sicuramente una cena leggera e molto predisponente al romanticismo. E noi abbiamo i nostri ascoltatori che sono intervenuti raccontandoci la loro storia d'amore in una ricetta, in un piatto. Abbiamo Mirko da Piacenza e Mimmo dalla provincia di Taranto. Mirko, fuori la ricetta. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, la mia ricetta è abbastanza, allora vogliamo dire, un po' pesante. Comunque, allora, partiamo subito con un soffritto di aglio. Poi imbuttiamo dei cubetti di pancetta, sì. E spaccando in quattro dei pomodorini, quelli piccoli, sì. Poi facendo mantecare tutto con le spezie, e poi ci buttiamo, scogliamo le farfalle, perché sì. Poi già le farfalle hanno un senso. Hanno un senso anche loro. Sì. E quando abbiamo poi mantecato tutto, mettiamo il tutto dentro in una terrina, inforniamo e mettiamo dei cuori di mozzarella, sì. In teoria sarebbe finita. Che il cuore, no, ma è perfetta perché il cuore si fonde, dottor Aquilar. La farfalla è un po' un rimando alla farfalla nello stomaco, perché si hanno le farfalle. Dottor Aquilar, che dice di Mirko? È un amore denso di elementi, complesso e articolato, che racconta in qualche modo un'emozione che ha vari aspetti, che tutti poi divengono armonizzati insieme. Perché oltre a mangiare bene e a respirare bene, occorre appunto sintonizzarsi sulle emozioni e comprendere la mente dell'altro. Quindi sono d'accordo su questa proposta di Mirko. Bravo, il dottor Longaro sarà un po' meno d'accordo, ma per oggi va bene. Oggi la parte del cattivo l'ha fatta Stella. E se la gode, le ha fatto proprio un regalo. Mimmo, dalla provincia di Taranto, buongiorno. Buongiorno, auguri a tutti. Auguri. E anche a chi l'amore non ce l'ha, perché non arriva sempre dietro l'angolo. Bravo. Guarda, io sono convinto che è così. Mi piace. La mia ricetta è una ricetta semplice, molto contadina. Praticamente sarebbe una pasta che viene cavata con un ferro quadrato, sì. Da fare dei maccheroncini scuri. Con dei crostacei, con dei gamberi, possibilmente le violette di Gallipoli, che hanno un profumo particolare. Perché anche l'olfatto, anche il profumo. È importante. Non pesante, leggero, perché dopo il pasto sicuramente si deve affrontare qualcos'altro. La serata continua. Benissimo. Dottor Aquilar, ha sentito, Mimmo ha aggiunto anche il profumo, la particolarità, questa pasta che è fatta a mano. Cioè, tutto una... Certo, i maccheroncini scuri che richiamano alla notte, alla complicità, all'intimità, e i crostacei che con le loro zampettine richiamano a mille curiosità e appetitoserie successive. Quindi anche quella di Mimmo è molto interessante e significativa. Dottor Aquilar, lei che cosa preparerà? Io credo che andrò sulla lasagna con una forma leggera e sostanziosa, e con il piacere, perché appunto oltre respirare e mangiare bene, con il piacere di gustarsi le emozioni mentre conversiamo. E anche io spezzerei però una lancia per quelli che, provando l'amore come broccoli e pesce lesso, si sentono un po' tristi e non telefonano. Potremmo provare a condire anche un amore che fosse in questo momento un po' sciappo con qualcosa di innovativo. Grazie al dottor Aquilar per essere stato con noi, per grazie la sua lettura sempre straordinaria, che ci aggiunge piacere. Grazie dottor Ongaro, grazie Stefano Polato. Il dottor Ongaro è stato particolarmente bravo, e al professor Tirelli che ci ha svelato i segreti della respirazione. Grazie a tutti, grazie voi che ci avete seguito. Appuntamento a domani, sempre innamorati. Essere e benessere.